Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ah, guardi, qui mi sembra un po' di vedere Romeo e Giulietta quando si parla di questo incontro. Sì, forse, ma però, non lo so, sono problemi loro. La messa, diciamo, in chiave romantica, Calderoli, della Lega, questo incontro che si deve fare, che si sta facendo in parte tra Forza Italia, quindi Romani come rappresentante, e il PD con la ministra Boschi delle riforme come rappresentante invece del governo, insomma, del PD, per riuscire a stringere, come si dice da un po' di tempo, su queste riforme. Adesso anche Grillo incalza e dice mercoledì vedremo Renzi, perché dice, insomma, intende far sul serio, noi ci siamo, e ha già annunciato che mercoledì si vedranno. Ma questo poi ne parleremo per l'appunto mercoledì. Un sacco di cose invece abbiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di cui parlare oggi. Ci sono delle novità sul caso Iara, di giorno in giorno e anche di ora in ora ci sono delle cose nuove, quindi ne parleremo. Ci sono molti altri argomenti, anche la Spagna che oggi cambia re, insomma, ve li racconterò poi man mano con gli ospiti sui vari argomenti. Vi ricordo che per i vostri commenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, quella è sempre lì per voi, e poi c'è anche il numero per gli SMS, che è il 349 238 6666. Allora, sentiamo che giornata è stata quella di oggi. Riforme vicino all'intesa sul Senato e Italicum, e Grillo avverte: noi siamo pronti, ma Renzi che cosa vuol fare? Intanto Gennaro Migliore e altri tre lasciano Sel. Il caso di Iara Gambirasio: Bossetti respinge le accuse e si proclama innocente. Quella sera dice: ero a casa con la mia famiglia. Intanto la GIP dice che deve rimanere in carcere, ma non convalida l'arresto. Cogne: secondo la perizia psichiatrica, Anna Maria Franzoni può essere risocializzata. Confindustria dal via libera al nuovo statuto, il presidente Giorgio Squinzi commenta: è un giorno storico. La corona, per quanto riguarda la Spagna, passa Felipe VI, giura tra gli applausi, assicura: rinnoverò la Spagna. Cultura, la rivoluzione dei musei, da luglio nuovi orari e nuovi prezzi. E per i mondiali di calcio, dopo la vittoria della Colombia sulla Costa d'Avorio per 2-1, domani, oggi vigilia, domani l'Italia con la Costa Rica, e per Buffon si decide in extremis. Siamo quindi dalla vicenda di Iara Gambirasio. La GIP di Bergamo ha deciso che Massimo Giuseppe Bossetti, accusato per il momento dell'omicidio, deve rimanere in carcere, pur non convalidando il fermo dell'uomo. Lo ha spiegato la legale di Bossetti, Silvia Gazzetti. Negli interrogatori oggi Bossetti si è proclamato innocente, ma di questo torneremo a parlare e cercheremo anche di capire che cosa significa continuare a mantenere un indagato in carcere, ma non convalidare almeno per il momento l'arresto. Però intanto siamo sulla politica, con il confronto sulle riforme. L'intesa si avvicina, ma Grillo lancia un avvertimento a Renzi. Si stringe sul Senato non elettivo e sul nuovo titolo quinto. Il ministro delle riforme Maria Elena Boschi incontra Gaetano Quagliariello del nuovo centrodestra e il capogruppo al Senato di Forza Italia Paolo Romani, che esprime soddisfazione. Abbiamo fatto passo avanti, l'accordo non c'è ancora. Rimane il problema dei sindaci e anche su quelle che rimangono come funzione del Senato. Quindi c'è ancora da lavorare, però devo dire che ci sono passi avanti significativi. Ma l'accelerazione irrita Beppe Grillo, che critica l'assenza di streaming, cosa hanno da nascondere, scrive nel blog, e la mancanza di risposte sull'apertura del Movimento 5 Stelle. Tra le proposte, il voto di preferenza, i tagli ai parlamentari, così Luigi Di Maio. Noi vogliamo dare un'alternativa a queste riforme, proprio portando questo contributo, e vogliamo essere ascoltati. Abbiamo chiesto di essere ascoltati domenica, non c'è giunta nessuna risposta, ci dicano sì o no, ci stanno oppure no. Per Roberto Giachetti però l'incontro con il Movimento è solo questione di tempo. Ma hanno scritto 2 giorni fa, noi gli abbiamo proposto di incontrarli per 6 mesi di seguito, ma sono passate 48 ore, non sono passati 48 mesi. L'accordo sul Senato che si sta delineando prevede una Camera alta non elettiva con consiglieri regionali e solo una piccola parte di sindaci. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Come dicevo all'inizio, Renzi ha detto va bene, vediamoci, quindi si incontreranno a breve, dovrebbe essere, come vi dicevo, mercoledì. Poi c'è la spaccatura dentro Sinistra Ecologia e Libertà dopo le dimissioni del capogruppo di Sella alla Camera, Gennaro Migliore, che lascia il partito. Altri lo hanno seguito. La ragione risiede nell'appoggio che Sella aveva dato al decreto IRPEF. E è venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, ha scritto Migliore in una lettera inviata al presidente Nichi Vendola e alla segreteria del partito, precisando che oggi non parteciperà al coordinamento nazionale che dovrà discutere proprio delle sue dimissioni. Vendola ha risposto: posto migliore, e come un figlio ci ripensi, ma come vi dicevo altri lo hanno seguito. E ora il processo La Vitola, c'è stato un duro battibecco di Berlusconi con la Corte. Dopo le dichiarazioni del pentito dei casalesi Antonio Iovine, la procura di Roma per competenza ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di corruzione. L'ex boss ha raccontato di una struttura al Tribunale di Napoli che si occupava di corrompere i giudici e aggiustare processi di camorra. Iovine riferisce e conferma in più interrogatori di processi comprati. Al momento dai documenti emergono 3 procedimenti, uno dei quali vedeva imputato il boss Michele Zagaria, che dopo un primo accordo non avrebbe pagato. Ai PM napoletani Ardituro e Sirignano, Iovine ha spiegato che per quel processo d'appello c'era la possibilità di ottenere una sentenza di assoluzione e che occorrevano 250.000 euro per corrompere i giudici. I soldi erano stati chiesti dall'avvocato Michele Santonastaso, suo difensore storico, oggi imputato per collusioni con la camorra, e che già per altri 2 processi finiti con assoluzione aveva chiesto ed ottenuto prima 200 milioni di lire e poi altri 200.000 euro. Fu lo stesso avvocato che consigliò di affidare un incarico ad un altro legale, Sergio Cola, ex parlamentare, a cui sarebbero stati pagati altri 100 milioni di lire, perché, si legge nei verbali, aveva un rapporto con l'allora presidente della Corte d'Assise d'Appello, Pietro Lignola. Ovviamente le dichiarazioni di Iovine, collaboratore di giustizia, dal 13 maggio scorso sono al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ne dovrà verificare l'attendibilità. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso passiamo allo scontro all'interno della Procura di Milano. Con 16 sì, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura archivia questo caso, ma manda gli atti in Cassazione per un'eventuale azione disciplinare. La guerra di Milano per ora finisce con un armistizio e con la premessa di un nuovo capitolo in sede disciplinare. Il CSM chiude 3 mesi di scontro aperto tra Alfredo Robledo, procuratore aggiunto, e il suo capo Edmondo Bruti Liberati, archiviando le pratiche aperte dopo l'esposto inviato dal primo per denunciare irregolarità, a suo dire, nella gestione di delicate inchieste. Invia però il CSM al procuratore generale della Cassazione gli atti riguardanti le inchieste SEA ed Expo, nel rispetto delle indicazioni del capo dello Stato, commenta il vicepresidente Michele Vietti ricordando la lettera di Napolitano. Il plenum di Palazzo dei Marescialli crede dunque che non ci siano né problemi organizzativi né questioni di incompatibilità ambientale per le due toghe duellanti, e così a maggioranza mette per il momento un punto alla vicenda che ha avvelenato il clima all'interno della principale procura d'Italia. Ora toccherà al PG Ciani stabilire se invece ci siano o meno gli estremi per un'azione disciplinare per il caso del fascicolo SEA, dimenticato nel cassetto per un po' dal procuratore capo, o del giallo del doppio pedinamento Expo. L'onda lunga di questo scontro senza precedenti potrebbe però ancora abbattersi a luglio sulla riconferma o meno per Bruti alla guida della procura meneghina. Vedremo se invece entrerà pure all'interno dell'aula del processo d'appello Ruby per Berlusconi. Sull'assegnazione di quel fascicolo a Ilda Boccassini il CSM non vede però ombre e non lo inserisce tra gli atti da inviare in Cassazione. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E si torna a parlare della vicenda di Cogne, perché Anna Maria Franzoni può essere risocializzata, questo è il termine, questo emergerebbe dall'integrazione della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale di Sorveglianza. Lo studio avrebbe approfondito i possibili rischi di recidiva e avrebbe detto che gli elementi di pericolosità sociale possono essere contenuti attraverso un percorso con i servizi sociali. Ora cambiamo proprio argomento e parliamo di Confindustria, che ha dato via libera a un nuovo statuto, e Squinzi, presidente di Confindustria, ha detto: è un giorno storico. Governance più snella, meno costi e nuovo codice etico. Nasce la Confindustria di domani. L'assemblea straordinaria di Viale dell'Astronomia dà il via libera al nuovo statuto che rende operative le linee guida della riforma approvata dalla Giunta lo scorso ottobre. È un giorno storico, commenta il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che parla di vera incisiva riforma del sistema. Di qui il monito alla politica: noi ce l'abbiamo fatta, ora tocca a voi con le riforme, altrimenti il paese non vi crederà più. L'assemblea di Confindustria approva anche un nuovo codice etico per riaffermare il rispetto della legalità. Saremo duri con chi sbaglia, dice Squinzi, riferendosi in particolare alle inchieste sugli episodi di corruzione relativi all'Expo. Noi saremo estremamente rigorosi nell'applicazione, in modo particolare nel codice etico. Quindi quello che è successo sicuramente non dovrà trovare il coinvolgimento, l'acquiescenza di imprese che aderiscono al nostro sistema. L'Expo è un'occasione imperdibile, sarà la dimostrazione che l'Italia vuole farcela, ha detto ancora Squinzi, che oggi ha firmato un accordo con cui l'associazione diventa partner istituzionale del Padiglione Italia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso siamo sulle notizie dall'estero. Vedo dall'Ucraina un leader separatista chiede un intervento del Cremlino, e poi c'era anche questa notizia che nella capitale a Kiev 4 soldati morti e 20 feriti. E poi la Spagna, invece, notizie di altro tipo. Per la Spagna, la cerimonia di investitura c'è stata oggi alla Zarzuela, la residenza reale spagnola, e poi un discorso e giuramento in Parlamento. E quindi da oggi Felipe VI ufficialmente il nuovo re di Spagna dopo la decisione di suo padre Juan Carlos di abdicare. Poi ne parleremo di questo. Invece torniamo sulle questioni italiane con la maturità. Oltre 1 milione di studenti oggi sono tornati tra i banchi per affrontare gli esami. Ai 500.000 maturandi alle prese con la seconda prova poi si sono aggiunti 600.000 studenti delle scuole medie. Non era una versione di quella a cui siamo abituati in classe, più lunga, costruzioni più complesse, però poteva andare molto peggio. È andato abbastanza bene, l'inizio era più facile, a metà c'era un pezzo che si capiva molto poco. Non ho capito niente, è stato complicato arrivare anche fino alla fine. Escono dalle aule con i dizionari in mano e l'ansia ancora addosso. La versione non era facilissima, ma tutto sommato fattibile per gli studenti del liceo classico che quest'anno hanno tradotto un brano dello scrittore Luciano. Alle prese invece con il calcolo degli integrali gli studenti del liceo scientifico, mentre gli alunni degli istituti tecnici per il turismo si sono misurati con una traccia su Expo 2015. Ora l'appuntamento è per lunedì, quando i maturandi dovranno sostenere la terza e ultima prova scritta. Oggi la campanella è suonata anche per gli studenti di terza media che hanno affrontato la prova Invalsi. Più o meno è quello che mi aspettavo. Era un po' difficile prepararsi per l'Invalsi perché è più un fatto di logica. Era anche difficile copiare perché i fascicoli erano diversi. Quei siti di logica un po' complicati, ma alla fine la prova è stata più facile del previsto. Proprio oggi la polizia postale ha individuato e denunciato 3 giovani hacker che si sarebbero introdotti nel sito web degli Invalsi e avrebbero tentato di acquisire i test. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora puntiamo verso lo spazio, perché partirà il 23 novembre, c'è cioè ancora qualche mese, però insomma si stanno preparando per la nuova missione di un astronauta italiano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si chiamerà Futura, durerà 6 mesi ed è stata presentata questa mattina da Samantha Cristoforetti, che è capitana dell'aeronautica militare e astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, che a bordo effettuerà numerosi esperimenti. L'ha intervistata Enrico Paglierini. Si tratta di una cosiddetta missione di lunga durata su questo, io lo chiamo l'avamposto dell'umanità nello spazio, in realtà è un grande laboratorio dove si fa principalmente ricerca scientifica, più tutta la serie di attività che servono per mantenere in funzionamento questo avamposto nello spazio. E quindi dal punto di vista scientifico la cosa bella di cui io sono molto orgogliosa è il fatto che durante questa missione svolgerò, oltre a tutta una serie di esperimenti delle varie agenzie spaziali coinvolte nel programma, tutta una serie di esperimenti della comunità scientifica italiana grazie ad un bando ad hoc che è stato fatto dall'Agenzia Spaziale Italiana, molto incentrati, devo dire, sulla fisiologia umana e la medicina, quindi aspetti molto vari, dalla neurologia, le strategie di equilibrio in microgravità, di adattamento del coordinamento psicomotorio, l'osso, quindi i problemi del riassorbimento dell'osso, quindi anche legato a tutti i problemi poi a terra di osteoporosi, aspetti vascolari, problemi del sonno. E poi ci sono anche degli interessanti dimostratori di tecnologia, da una stampante 3D, che è una tecnologia che ormai è consolidata a terra, però si vuole iniziare a validarla, a testarla e validarla per l'ambiente spaziale. E poi addirittura ci sarà una macchina del caffè espresso. Chiaramente è una cosa che può sembrare di costume, sicuramente c'è anche un elemento di costume, però anche lì dentro c'è un forte contenuto tecnologico, perché ci sono tutti gli aspetti termici e idraulici che non sono così ovvi quando si lavora in assenza di peso. Bene, dallo spazio torniamo con i piedi per terra, i piedi dei calciatori che stanno correndo. Adesso c'è per i mondiali in Brasile la partita Uruguay-Inghilterra, vedo che sono 0-0 ancora per il momento, mentre prima la partita precedente era Colombia-Costa Rica, Costa Rica, poi domani con gli italiani, la Colombia che ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, e poi parleremo anche di questa vigilia, della partita che aspetta l'Italia. Intanto ci prendiamo una pausa, così si aggiorna chi viaggia, c'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Notte se avete dei commenti da fare sulle varie notizie. Adesso parleremo di nuovo del caso Iara, oppure i messaggi al 349-238-6666. A dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. continuo l'effetto naturalmente come sempre sino alle 22, però se qualcuno avesse acceso adesso vi ricordo quali sono state tra poco le notizie principali della giornata. Ricordatevi, ogni pausa io ve le rammento se qualcuno non le ha sentite o le vuole semplicemente sentire riepilogare. Poi vi dicevo, torneremo ad approfondire la vicenda di Yara perché ci sono di poco in poco delle novità, anche perché appunto è appena stato arrestato il presunto colpevole in questi giorni e quindi man mano vengono fuori delle cose nuove, dei dettagli. Però adesso un riepilogo delle notizie della giornata. A un passo dall'intesa sulle riforme con Forza Italia, Renzi al Movimento 5 Stelle intanto dice vediamoci, abbiamo poco tempo da perdere, e la ministra Boschi vede Romani di Forza Italia. Berlusconi intanto al processo La Vitola attacca ancora i PM, dice la magistratura irresponsabile. Il leader di Forza Italia, che è testimone al processo La Vitola, ha detto la magistratura incontrollata, incontrollabile, irresponsabile e ha immunità piena. Caso Yara fermo, non convalidato dalla GIP, ma Bossetti resta in carcere. Quel giorno ero a casa, dice, la sorella lo difende e commenta, l'hanno incastrato. Felipe è il nuovo re di Spagna, rinnoverò la monarchia, commenta un giuramento fatto oggi fra gli applausi. La corona, dice, deve essere simbolo di unità del paese. La rivoluzione dei musei, anche di questo parleremo da luglio, nuovi orari e prezzi. E Franceschini, ministro della cultura, dice sconti solo ai giovani e una domenica gratis. Gli azzurri verso il Costa Rica, obbligati a una vittoria. Mourinho intanto esalta Balotelli. Adesso c'è in corso la partita Inghilterra-Uruguay, vediamo, sempre 0-0, sempre in parità. Quindi ne abbiamo parlato ieri, ma vi dicevo, non per accanimento, per crogiolarci in questa vicenda, ma perché effettivamente ci sono man mano degli sviluppi dopo l'arresto del presunto colpevole dell'omicidio della piccola Yara. E saluto Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, che se ne occupa da tanto tempo. Ciao Fiorenza. Ciao, buonasera. E c'è Roberta Sacchi, psicologa e criminologa. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora Fiorenza, intanto partirei da te perché oggi effettivamente ci sono state delle cose nuove, cioè Massimo Giuseppe Bossetti per la prima volta, dopo mi pare per due volte essersi avvalso della facoltà di non rispondere, ha parlato e si è proclamato innocente. E poi c'è l'altra novità di poco fa praticamente, di un'ora fa, due ore fa, adesso non ricordo, in cui si è saputo che la GIP, la giudice per l'indagine preliminare, non ha convalidato il fermo di Bossetti, anche se ha detto per ora resta in carcere. Ecco, soprattutto quest'ultima cosa, che cosa significa esattamente? Beh, questa è una fase molto importante perché la giudice ha ritenuto che non ci fossero il pericolo di fuga che aveva, diciamo, spinto il pubblico ministero a emettere il fermo, quindi una misura di urgenza, ma ha ritenuto che l'impianto accusatorio regga, che siano in questo momento, che ci sia una tenuta delle accuse contro Bossetti, e quindi ha direttamente emesso la misura di custodia cautelare in carcere. Questo vuol dire che a questo punto, per uscire dal carcere, Bossetti dovrà in qualche modo fare ricorso al tribunale del riesame, quindi non basta più, diciamo, semplicemente il appunto la non convalida del fermo, perché c'è già la misura di custodia cautelare. Quindi in realtà, letto così da profani, poteva sembrare che ci fosse qualche dubbio sulla colpevolezza di cui tanto si è parlato in questi giorni per la non convalida del fermo, invece no, siccome già è in carcere non c'è bisogno di convalidare il fermo, è questo? No, non è questo il motivo, cioè il giudice ha detto quando tu hai emesso il fermo lo hai in qualche modo motivato dicendo che invece di chiedere l'ordinanza di custodia cautelare, quindi passare subito al vaglio del GIP, tu lo hai motivato dicendo che tu lo fermavi perché lui poteva scappare. Il giudice dice, secondo me questo pericolo non c'era, quindi hai sbagliato a fermarlo, dovevi chiedere direttamente l'ordinanza di custodia cautelare, e poi il giudice valutava tutto l'impianto accusatorio. Lo valuto adesso, penso che l'impianto accusatorio regga e quindi Bossetti deve rimanere in carcere. Rimane in carcere per il momento. Senti, e oggi l'impianto comunque regge, cioè sì, è un rafforzamento. Ah, un rafforzamento per quanto riguarda le accuse mosse a Bossetti, perché c'è già l'ordinanza di custodia cautelare. Ah, è chiaro, adesso sembrava così apparentemente il contrario. Senti Fiorenza, e poi oggi per la prima volta ha parlato Bossetti. Sì, e questo secondo me è una cosa molto importante, anche se poi suonata quasi come una debolezza, nel senso che lui si era avvalso della facoltà di non rispondere e quindi ci si aspettava che lui continuasse a non rispondere quantomeno fino all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare o comunque alla decisione del giudice. Il fatto che lui abbia in qualche modo voluto rispondere, spiegare che lui è innocente eccetera, rispetto alla sua linea difensiva che non è stata subito così diretta, è apparsa quasi una forma, diciamo, di debolezza rispetto appunto all'impianto accusatorio. Invece Roberta Sacchi, lei che dalle cose che sono emerse finora dopo il fermo di Bossetti, che idea si è fatta di quest'uomo? Ma di quest'uomo è difficile dirlo dalle notizie stampa, in ogni modo certo, sono bisogna... perfettamente d'accordo con quello che diceva Sarzanini, cioè l'impianto accusatorio è fortissimo, c'è questa prova del DNA che lo sostanzialmente lo inchioda, ora se poi venisse confermata che questa traccia si tratta di sangue e sugli slip, sarebbe difficile spiegare come c'è finito del sangue sugli slip. Ho sentito la sorella che dice l'hanno incastrato, ma certo è difficile incastrare qualcuno depositando del sangue su degli slip, quindi sono perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda la personalità, con tutti i se e i ma del caso, ovviamente, perché si tratta fino a prova contraria ancora di una persona non condannata, sì. Però non è che ci deve stupire che sono persone, cioè i predatori sessuali di bambini e di adolescenti in questo caso conducono perfettamente delle vite normali, nel 90% dei casi hanno delle vite regolari, sono sposati, hanno figli, sono persone abbastanza miti. Per cui non ci stupirebbe un profilo di questo tipo. E come Roberta Sacchi, come al di là che sia lui che non sia lui, ma come è possibile riuscire a distinguere dentro di sé queste due parti? Da una parte compiere un delitto così efferato, anche con sevizie e crudeltà, è stato detto, e dall'altra parte avere dei figli e essere anche amorevoli, tranquilli con la propria famiglia, con la propria compagna? Ma in realtà è perfettamente compatibile, nel senso che, guardate, io faccio sempre questo esempio, quando ho iniziato diciamo questo lavoro mi è capitato di lavorare con una persona molto giovane che era accusato di ben 17 delitti di camorra. Era sostanzialmente un killer di professione e quando l'ho incontrato lui sostanzialmente piangeva e voleva uscire dal carcere, perché quando era stato diciamo prelevato e quindi condotto in carcere, la bambina che aveva appena avuto, aveva circa 2 anni, aveva dovuto rinunciare al cucciolo di cane che gli era stato appena comprato, perché si erano trasferiti con la moglie e questo cagnolino a casa dei suoceri, che credo dei suoceri se non ricordo male, che non volevano questo cagnolino, erano allergici. Quindi lui piangeva perché voleva assolutamente uscire dal carcere per tornare a casa e dare modo alla figlia di tornare con questo cagnolino. Quindi capite la scissione che vivono queste persone, no? Sì. Cioè provano degli affetti anche sinceri, perché credetemi, piangeva lacrime sincere per questa bambina a cui mancava il cagnolino, piuttosto che per le 17 persone che aveva ucciso. Quindi non ci devono stupire queste scissioni. Poi ci sono anche meccanismi psicologici di rimozione, nel senso che sono passati 4 anni e probabilmente anche molto distante da lui questo delitto. Distante psicologicamente, ovviamente. Fiorenza Sarzanini, intanto però, mentre lui ha detto oggi in interrogatorio che quella sera era in casa con la famiglia quando fu uccisa la povera Yara, la moglie però mi sembra che abbia detto che lei non ricorda dove fosse quella sera. Esattamente, l'ha detto a verbale ai carabinieri, e questo secondo me è anche un elemento molto forte. Primo, perché è non poco credibile che nel momento in cui in un paese come Brembate, quindi non stiamo parlando di Milano, di una città o comunque di un posto dove accadono più frequentemente fatti di cronaca, in un paese come Brembate sparisce una bambina, io mi immagino che chiunque tra gli abitanti sappia che cosa ha fatto quella sera. Però anche ipotizzando il fatto che non sapesse che cosa ha fatto quella sera, lei, nonostante sia stata informata del fatto che poteva non rispondere perché è la moglie dell'indagato e quindi ha la facoltà di non rispondere, ha voluto rispondere e pur avendo detto appunto che il marito è una brava persona, che il marito è un bravo marito, un bravo padre, un marito modello, eccetera, non gli ha fornito alcun alibi. E questo secondo me è indicativo quantomeno di una debolezza in questo momento della linea di difesa. Roberta Sacchi, non potrebbe in questo caso la moglie o davvero non ricordarsi o aver paura di dire una cosa per un'altra e quindi poi a sua volta essere magari coinvolta? Ma guardate, i processi di memoria sono abbastanza complicati e non è così semplice dire poiché c'è stato un evento di quel genere allora automaticamente ricordo dove era mio marito, nel senso che molto spesso, voi lo sapete, la quotidianità scivola e non si ricorda, a meno che non ci sia un evento che ti tocca personalmente, traumatico, allora sì che puoi ricordare molti dettagli. Quindi voglio dire, io credo invece alla fedeltà delle parole di questa donna, che effettivamente non ricorda, perché la notizia peraltro può essere stata data magari in tarda notte oppure il giorno dopo. Non credo che sia un elemento, diciamo, di debolezza rispetto al possibile alibi. D'altro canto, anche se avesse detto era a casa, ha un valore fino a un certo punto, no? La testimonianza della moglie. Di una moglie. E ancora, Roberta Sacchi, leggevo oggi che ci sono anche dei possibili punti di debolezza nella tesi accusatoria, perché intanto può essere difficile ripetere gli esami su quelle piccolissime tracce di sangue trovate, no? A distanza di 3 anni e mezzo, quando è stato scoperto. Ma più che la distanza, credo che il problema sia proprio la quantità di tracce trovate. E poi il cellulare del muratore, del presunto colpevole, che si era agganciato sia alla cella telefonica quella sera che copre il luogo della scomparsa della ragazzina, ma il fatto è che lui abita anche in quella zona. Sì, questo è il problema che si è presentato nel caso, diciamo, di Melania Rea. È molto difficile, sarebbe molto difficile ripeterlo perché i satelliti si spostano e quindi fare un esperimento diciamo ripetitivo rispetto a quello che è successo e non sarebbe più possibile. Però devo dire che, ripeto, cioè, questi sono elementi sicuramente di contorno anche forti, però c'è il DNA non sbaglia. E mi pare questa una conclusione sulla quale chiuderei, a meno che Fiorenza Sarzanini non vuoi fare un ulteriore commento prima di salutarci. No, va bene così, io sono d'accordo, cioè è un elemento talmente forte che a questo punto spetta all'indagato l'onere di dimostrare che non è così. Ricordatevi che la traccia è interna agli slip di Chiara, quindi è non così, c'è neanche il problema della contaminazione. Che sia caduta su una macchia di sangue o cose del genere. Esattamente. Grazie Fiorenza Sarzanini, grazie Roberta Sacchi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E ci prendiamo una pausa di pubblicità e di riflessione, anche se volete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Note. Per voi ci risentiamo proprio a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco qua Roberta Giordano ancora con voi, vi ricordo le notizie principali di oggi a partire dalle riforme. È vicina l'intesa sul Senato Italico, come Grillo avverte, noi siamo pronti. Renzi che cosa vuol fare? Poi Renzi ha dato la risposta, ci vediamo mercoledì. Intanto Gennaro Migliore e altri 3 lasciano SEL. Il caso di Yara Gambirasio, ne parlavamo poco fa, Bossetti respinge le accuse e si proclama innocente. Quella sera dice ero a casa con la mia famiglia, intanto la GIP dice che deve rimanere in carcere anche se non convalida il fermo. Cogne, secondo la perizia psichiatrica Anna Maria Franzoni può essere risocializzata. Spagna, la corona passa a Felipe VI, giura, fa gli applausi, assicura, rinnoverò la Spagna. E poi per i mondiali di calcio, sempre in campo Uruguay-Inghilterra, 0-0 per il momento. Vedo diversi vostri messaggi, Paolo da Milano dice i satelliti si spostano, ma non è vero, le celle per telefonia sono fisse, si riferisce evidentemente a cosa si diceva poco fa. E poi ringrazio Mirka per il suo messaggio. E ancora Luciano al classico, a proposito della maturità, sono contento, mi è sempre stato simpatico, Crescenzo, dice Fulvio, ma si tratta di Luciano, autore classico greco. E adesso parliamo invece di Spagna. Spagna. Prima che parlare da un punto di vista calcistico, diciamo, sicuramente non è un momento fortunato, per non dire altro, per la Spagna. Invece oggi è stato comunque un giorno importante per questa nazione, perché c'è stato un passaggio di testimone. Re Juan Carlos ha abdicato dopo 39 anni di regno e Felipe IV, suo figlio, ha giurato fedeltà alla Costituzione come nuovo re. Chiedo conferma a Enrica Roddolo, che saluto. Ciao Enrica. Buonasera. Enrica Roddolo, giornalista di RCS Corriere della Sera, scrittrice, esperta di teste coronate, tra i tanti libri Invito a Corte e molti altri. Enrica, quindi questo passaggio non è un, per carità, non è mai semplice il passaggio da un re all'altro, però si porta dietro in Spagna tante cose, anche perché Juan Carlos, diciamo, negli ultimi anni non è che forse aveva dato una grande immagine di sé. Ma iniziamo da Felipe, che oggi ha giurato, c'è stata tutta la cerimonia, il Parlamento di Madrid. Intanto, che tipo di teste coronate sono quelle spagnole? Partiamo proprio dalla cerimonia che abbiamo visto in diretta sugli schermi televisivi di tutto il mondo oggi di Felipe VI, che ha giurato sulla Costituzione spagnola. Ecco, questo è un primo elemento che dice quanto sia distante il giuramento di re Juan Carlos I negli anni 70 da questo giuramento. Quindi una monarchia che sta cambiando, insomma. È una monarchia che sta cambiando radicalmente. Juan Carlos giurò ancora sui principi del movimento del franchismo e invece oggi Felipe ha giurato su quella Costituzione che il padre ha fortemente voluto d'accordo con il popolo spagnolo. Hai ragione tu quando dici, certo, anche l'immagine di Juan Carlos, che è stata così straordinariamente potente e carismatica nella storia della Spagna di questi anni, negli ultimi tempi si era un pochino appannata. E io credo che non a caso il nuovo re Felipe oggi abbia fatto appello nelle sue parole del primo discorso di insediamento e proprio al suo desiderio di diventare anche un esempio, un emblema di onestà, di comportamento etico, di trasparenza, e quasi a voler rimarcare che se qualche errore c'è stato, la Casa Reale spagnola sa perfettamente qual è il suo ruolo ed è decisa a percorrerlo fino in fondo. Certo, Juan Carlos era un sovrano carismatico, è stato uno straordinario traghettatore del paese dalla fine della dittatura franchista, no? Dalla fine della dittatura franchista. Assolutamente, alla stagione della Spagna democratica, della monarchia democratica e costituzionale, che ha guidato il paese anche attraverso uno straordinario successo economico, pur facendo i conti poi di recente con una pesante crisi. Certo. Però sicuramente il nuovo re Felipe è un re più professionale. E cosa intendo? Intendo dire che i nuovi sovrani che sono saliti al potere in questo ultimo anno 2013 e vediamo oggi 2014 anche re Felipe, sono tutti ragazzi cresciuti e che hanno studiato nelle migliori scuole internazionali, hanno studiato legge, economia, relazioni internazionali, sono laureati chi a Londra, chi negli Stati Uniti, insomma hanno studiato in modo direi professionale, quasi come dei veri e propri manager per questo incarico che a loro sarebbe toccato prima o poi nel corso di ricoprire. Della vita. A 46 anni, no Felipe, mentre il padre 76. Giusto? Sì, esattamente. Sì. Ed è un sovrano tutto sommato ancora giovane, nel senso che se pensiamo a Carlo, visto... Carlo ormai quanti anni ha Carlo d'Inghilterra? No, non so se mai riuscirà a diventarlo. Beh, prima di Carlo d'Inghilterra, sì, in effetti oramai ha vissuto, si può dire che ha vissuto gli anni migliori in un ruolo in panchina, insomma, in attesa sempre di questa successione al trono. Ecco, il trono di casa Windsor per ora è saldamente in mano alla regina Elisabetta e insomma sarebbe veramente un colpo di scena se ci fosse anche un'abdicazione in questo senso, ma io credo no, che per questo 2014 per adesso abbiamo appunto ancora negli occhi l'attualità di oggi. È veramente una realtà molto particolare quella della monarchia spagnola. L'obiettivo che adesso avrà Felipe sarà altrettanto importante e straordinario, come appunto tenere insieme anche le tante anime del paese. Per questo anche nel suo discorso di insediamento oggi ha ribadito questo punto: siamo una nazione forte perché così diversa eppure così unita, e dobbiamo cercare di restare così. Enrica, senti, ma parte del popolo, insomma degli spagnoli, che tipo di affezione, c'è un buon rapporto sempre con la monarchia o a distanza di anni c'è disaffezione? Beh, chiaro che gli spagnoli che hanno vissuto il franchismo e che soprattutto hanno vissuto il passaggio dal franchismo al juancarlismo, è molto forte un senso di riconoscenza nei confronti di quanto ha fatto re Juan Carlo. Le generazioni più giovani chiaramente non hanno vissuto sulla propria pelle quella stagione storica e quindi sentono meno forte quel retaggio, quella memoria, però molti giovani si riconoscono in Felipe in quanto lo vedono un coetaneo e condividono, diciamo, quegli stessi ideali che intende portare lui durante il suo regno. Lui ha parlato molto oggi di ecologia, di tecnologia, di etica. Ecco, sono parole forse un po' nuove e distanti un pochino di più da quello che invece era un obiettivo molto diverso della monarchia di re Juan Carlos, che appunto aveva ben altro cui metter mano. Certo. Doveva cambiare il paese da una dittatura e farlo diventare una democrazia. È chiaro. Enrica Rodolo, poi un forte rafforzamento di questa immagine contemporanea, moderna, più vicina ai giovani, eccetera, di Felipe VI lo dà anche Letizia, no? La moglie, che adesso diventa regina a sua volta, giornalista, sì, anche lei non si è montata la testa. Tra l'altro, ecco, una collega giornalista, possiamo giustamente dire Roberta, la prima ex giornalista a salire su un trono internazionale, non soltanto europeo, e che ha contribuito a portare nell'interno delle dinamiche della monarchia spagnola un pizzico ulteriore di normalità. È una plebeia, una ragazza borghese senza una goccia di sangue blu. All'inizio ha avuto un periodo molto difficile di ambientamento all'interno delle dinamiche della casa reale. Non dimentichiamo che comunque la casa Borbone è ancora abbastanza tradizionalista. Letizia ha saputo lavorare anche sul suo carattere, cercando di proporsi in una linea, diciamo, più in sintonia con quelle che sono le caratteristiche di una tradizionale sovrana, anche perché deve raccogliere il testimone da Doña Sofia, che è stata magistralmente abile nel rivestire il suo ruolo. Enrica, abbiamo ancora proprio un minuto, poco meno di un minuto, per dire questo del barista di Barcellona che dice: sono io l'erede al trono, adesso che re Juan Carlo non ha più immunità lo porterò davanti agli avvocati. Sono un pettegolezzo, un mitomane, questo cosa? Proprio in un minuto. Ma ci sono sempre stati questi tentativi molto molto improbabili. Nella storia del passato non si ricorda, credo, un caso di successo, ma la verità è che io credo, insomma, il regno di Felipe e Letizia avrà ancora molti anni davanti a sé, e per Juan Carlo si sta lavorando per il cosiddetto famoso afforramiento, insomma, per costruire attorno alla sua figura una sorta di immunità anche adesso. Beh, appunto, che ecco, non è più sovrano. No. Più sovrano. Allora, intanto già si prepara in panchina la piccola Leonor, che da oggi è la più giovane erede al trono d'Europa. Speriamo che lo diventi. Okay. Speriamo che lo diventi. Grazie Enrica Rodolo. Buona serata. Ciao, buona serata a voi. Ciao. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E ritorno allora a raccontarvi le notizie principali di oggi. Sulle riforme ormai Renzi dice siamo a un passo dall'intesa con Forza Italia, infatti si sono viste la ministra Boschi e Romani, appunto di Forza Italia, e poi con il Movimento 5 Stelle il Presidente del Consiglio fa sapere ci vedremo tra poco, dovrebbe essere mercoledì il giorno. Berlusconi al processo La Vitola, dove testimone attacca i PM, parla di magistratura irresponsabile. Sul caso Iara il fermo non è convalidato dalla GIP, ma Bossetti resta in carcere, oggi ha parlato e ha detto io quel giorno ero a casa. L'avete appena sentito, Felipe è il nuovo re di Spagna, rinnoverò la monarchia, c'è stato un giuramento tra gli applausi e assicura la corona sarà simbolo dell'unità del paese. E poi la rivoluzione dei musei, da luglio nuovi orari e prezzi, lo dice il ministro Franceschini, oggi sono stati gli stati generali a Roma, organizzati della cultura, organizzati dal Sole 24 Ore, ci saranno la possibilità di entrare gratis per i giovani nei musei e non più invece per gli over 65 che dovranno pagare. Poi gli azzurri verso Costa Rica, obbligati a una vittoria, Mourinho esalta Balotelli, mentre in Inghilterra Uruguay, dentro fuori per l'Inghilterra, ma al momento l'Inghilterra mi sembra con un piede fuori, ma non vorrei anticipare nulla perché vanno 1-0 per il momento, il risultato parziale con l'Uruguay. Adesso parliamo di Europa, l'Italia fa i conti con il suo ritardo infrastrutturale sulla banda larga, lo sappiamo, no? Gigi Donelli ne parla col vice direttore generale della DG Connect. Europa 24 notte. A Agenda digitale per l'Europa. Oggi che è giorno di maturità per mezzo milione di studenti italiani, il tema è particolarmente sensibile. Ne parliamo col vice direttore generale della DG Connect della Commissione Europea, Roberto Viola. Benvenuto e innanzitutto, dottor Viola, la prima questione è: a che punto è l'Italia, che viene spesso indicata come indietro nella sua, nella costruzione, diciamo, della sua personale agenda digitale? Guardi, l'Italia è un pochino luci e ombre, è il quadro che abbiamo quest'anno. La notizia positiva è che per quanto riguarda la connessione a internet di base, questo ha raggiunto il 99% della popolazione italiana, però ci sono ancora dei buchi di copertura, soprattutto nelle aree fuori della città. Il dato che ci preoccupa molto invece è la copertura della banda larga. Il dato italiano è particolarmente preoccupante perché registriamo solamente il 21% delle abitazioni connesse alla banda larga, comparato col valore medio europeo del 62%. Ci sta dicendo che siamo molto connessi, 99%, ma con delle modalità che sono già vecchie? Sì, un pochino questo è il quadro, lei l'ha fotografato benissimo. Sa, c'è un ritardo infrastrutturale enorme che l'Italia paga, non avendo la rete di distribuzione via cavo, l'Italia in questo momento sta pagando un ritardo che tanti altri paesi europei non hanno. L'altro dato che continua a essere un dato sotto la media europea è il numero di italiani che usano internet tutti i giorni. Il dato europeo è del 62%, il dato italiano è del 54%. Ancora più da discutere è il dato degli italiani che non hanno mai usato internet. Sono il 34% della popolazione e la media europea è del 20%. A proposito del ritardo culturale, è un ritardo e un legame strettamente connesso a un aspetto anagrafico oppure è distribuito anche tra i giovani? Ma guardi, più la popolazione italiana è la media più alta della popolazione europea, quindi questo senz'altro incide. Però anche nei giovani purtroppo le conoscenze digitali non sono così diffuse come nel resto d'Europa. Noi abbiamo la sensazione spesso come genitori di essere circondati da figli che passano la giornata attaccato allo smartphone. In realtà mi sta dicendo che è un po' un'illusione ottica magari di certe parti d'Italia? Guardi, questo sicuramente è un dato che riguarda, è un dato aggregato del paese, quindi va un po' declinato nord, sud, grandi centri urbani, fuori dai grandi centri urbani. Però il dato importante è anche il dato quello che riguarda gli skill avanzati. Ecco, sugli skill avanzati anche l'Italia segna un po' il passo e lì è un dato che riguarda soprattutto i giovani, quindi la formazione che ricevono a scuola e la formazione professionale. Cioè lei dice non basta navigare magari sul proprio smartphone per essere competenti nel mondo digitale? Direi questo dimostra un piccolo interesse, ma poi per poter utilizzare le tecnologie digitali ci vuole un po' più di preparazione, quindi come si studia l'italiano, come si studiano le lingue straniere, la matematica, si deve programmare a scuola. Noi lanceremo ad ottobre la settimana della programmazione, che è una settimana che già si fa negli Stati Uniti, una settimana di promozione dell'informatica nelle scuole, lo lanceremo a ottobre per tutta l'Europa. È importante che l'informatica entri negli insegnamenti di base, nella scuola, a tutti i livelli, a livelli di base e a livelli avanzati. E questo, diciamo, il salto di qualità che deve fare l'Italia se vuole essere competitiva in questo settore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Filato in Brasile, adesso dove c'è sempre il nostro Dario Ricci. Dario, preferisci iniziare dalla vigilia italiana della partita dell'Italia oppure da questo Uruguay-Inghilterra, dove l'Inghilterra se la vede per il momento male? Approfitto dell'assist che mi dai per ricordarvi appunto il risultato di Inghilterra-Uruguay, visto che è partita importante, visto che sono le altre due avversarie del nostro girone. L'Uruguay in vantaggio con un gol di Suarez al 39esimo, un bel colpo di testa, e adesso sì, per l'Inghilterra la situazione si complica, ma anche per noi, perché noi ci giocheremo all'ultima giornata a Natale, il 24, contro gli uruguaggi. Quindi dov'è che giochiamo? A Natale, il 24. Ah, ho capito, insomma, a Natale, dico come a Natale, il 25 da dicembre, cosa c'era, scusa? A Natale il 24 la battuta la lascio attento. Ah, caro, poi ero lì che ero un po' distratta dalla partita che stavo guardando adesso. Senti Dario, invece oggi ha parlato Prandelli, ha parlato Balotelli, no? Se non sbaglio. Sì, sì, hai proprio ragione, conferenza stampa della vigilia, allora d'obbligo per il CT, ma la sorpresa è stata l'intervento in sala stampa di Super Mario sereno e anche molto carico, perché ha detto, dice, io non voglio essere la star di questi mondiali, ma voglio soprattutto vincerli con la mia nazionale. Lo vogliamo sentire quindi, la sua viva voce? Sì, sentiamolo. Sentiamolo, via. Sentiamo. Spero che questo sia il mondiale dell'Italia, non di Mario. È normale che io gioco nell'Italia, quindi spero di dare un buon apporto a questa squadra, però non è che mi interessi più di tanto di essere messo vicino a grandi star, perché alla fine vince la squadra. Io voglio vincere il mondiale, non voglio essere una grande star. Un strano bagno di modestia per Balotelli, ma comunque insomma si vede che Prandelli gli fa bene, Dario, non lo so. Beh sì, oggi sembrano un po' papà e figlio, almeno calcisticamente parlando, perché Prandelli usa sempre il bastone e la carota, gliel'ha detto, dice se Mario è quello che abbiamo visto contro l'Inghilterra, è una risorsa in più, altrimenti, poi ha aggiunto subito dopo, se non riesce a garantire quell'intensità, siamo in 23 e ce ne sono altri bravi quanto lui, quindi insomma, sempre per tenerlo un po' sulla corda. No? Certo. Senti, dici a che ora domani giocano Italia-Costa Rica? Giochiamo alle 18 italiane, che quindi è l'orario perfetto, diciamo, per voi. Alle 13 qui a Recife, che è l'orario peggiore, sono previsti intorno ai 30 gradi in campo. Prandelli preoccupatissimo, eppure noi giornalisti comunque non è che la prendiamo alla leggera, abbiamo già pronto le scorte d'acqua. E via, si può sopportare un po' di caldo. Comunque ci sentiamo domani, il risultato ormai è arrivato. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo tra poco. Grazie.